Rassegna Stampa Europa. Cari amici, buongiorno, un saluto da Gigi Donelli, da Filippo Aureggi in regia, un saluto da Radio 24 e benvenuti in questo nuovo orario nello spazio consueto della Rassegna Stampa Europea. Dunque, il tema non cambia, nei prossimi 10 minuti avremo modo di vedere 5 articoli selezionati su quelli che sono i temi della settimana, appunto sul fronte dell'Unione Europea, delle relazioni europee. Allora, abbastanza inevitabile la scelta del nostro primo articolo, perché riguarda la questione del gas. Come forse sapete, come avete sentito nelle edizioni di Radio 24, giovedì sera, dopo molta battaglia, è stata dunque trovata un'intesa tra Russia, Unione Europea e direi Ucraina nel mezzo, appunto sul rifornimento di gas. E prendiamo molti gli articoli ovviamente su questo tema nella stampa pubblicata ieri, dunque venerdì. Noi scegliamo quello del Guardian e leggiamo: non più minacce sul gas nell'inverno dell'Europa. Insomma, un titolo che rassicura contro l'ipotesi di un inverno al freddo per l'Ucraina, per anche diverse nazioni europee che dalla Russia ricevono una parte consistente del proprio rifornimento. E prosegue il Guardian: dopo mesi di negoziati, Ucraina, Russia e l'Unione Europea hanno finalmente firmato un accordo sulla distribuzione, sulla consegna appunto del gas naturale. Un accordo da 4,6 miliardi di dollari, quello che il Guardian chiama un winter package, una sorta di, anche di gioco di parole, pacchetto invernale, come per le gomme delle automobili, un pacchetto riscaldamento per circa 280 milioni di europei. Come sapete bene, l'Italia per esempio non è totalmente dipendente dai rifornimenti che arrivano dalla Russia, ma sicuramente il gas russo rappresenta una quota molto importante, circa il 30%, e consideriamo anche che per alcuni paesi, soprattutto nell'Europa centrale, ecco, questa quota cresce parecchio. Dunque, 4,6 miliardi di dollari è l'accordo finale descritto dal Guardian, un accordo che è concluso almeno fino alla primavera del 2015, un orizzonte temporale davvero non enorme, ma che serve appunto per mettere, diciamo, al sicuro, si potrebbe dire al caldo, l'inverno. Ad annunciarlo è stato il commissario europeo all'energia Günther Oettinger, che peraltro proprio questa mattina passa di incarico. Oettinger, dunque, fino a ieri con la commissione Barroso era responsabile per l'energia, da questa mattina invece con la commissione Juncker il suo portafoglio diventa quello dell'economia digitale. Ecco dunque una notizia che arriva, come potremmo dire, in zona Cesarini, almeno per quanto riguarda il portafoglio e l'incarico svolto da Oettinger appunto negli ultimi 4 anni, e che nello stesso tempo, come abbiamo intuito, sarà ripreso da trattative che saranno necessarie a partire dalla prossima primavera. Una piccola conclusione su questo tema: è evidente che nel momento in cui Mosca, l'Unione Europea e Kiev trovano un accordo che peraltro prevede il pagamento completo di quanto chiesto e degli arretrati ucraini, in sostanza chiesto dai russi con una grossa partecipazione dell'Unione Europea, ecco che viene considerato un ottimo segnale per la questione più calda, che è quello dell'est Ucraina, quindi del conflitto nell'est dell'Ucraina, che vede, come sappiamo, protagonista Mosca da una parte e dall'altra una Ucraina sempre più orientata verso Occidente. Insomma, una buona notizia per aprire questa rassegna stampa europea. Dal Guardian ci spostiamo al Sole 24 Ore, che il 28 ottobre pubblica un articolo dal titolo molto chiaro sul tema. Il titolo infatti è "La posta in gioco a Bruxelles". Che cosa è accaduto, ci racconta in questo articolo Sergio Fabbrini, negli incontri che sono di fatto stato il vertice, il Consiglio europeo. Allora, 3 paragrafi su 26, ecco l'attenzione dedicata alla crisi economica nelle conclusioni del Consiglio UE del 24 ottobre scorso. Ma non si cade in inganno. inganno. L'attenzione non è stata scarsa come appare. Quei tre paragrafi testimoniano dello stallo in cui si trova oggi il massimo organismo decisionale dell'Unione Europea. Non c'è più l'unanimità sulla politica dell'austerità, non c'è ancora un consenso su quale politica economica può promuovere la crescita. Da un lato, dunque, prosegue Fabbrini, si riconosce che i recenti sviluppi macroeconomici sono deludenti per via della bassa crescita, di persistenti livelli di disoccupazione e per la bassa inflazione, ma dall'altra parte si insiste a sostenere che solamente le riforme strutturali e finanze pubbliche solide sono la condizione per gli investimenti. Da una parte, insomma, si dà ragione alla Francia e all'Italia, che denunciano il declino economico dell'Europa. Dall'altra, si difendono le ragioni della Germania e dei suoi alleati del Nord, che ritengono la crescita un esito del consolidamento fiscale. Nel passato, divisioni interstatali di questa natura venivano risolte attraverso la tensione collaborativa tra Germania e Francia. Oggi la Francia non può parlare pubblicamente perché il suo debito ha bisogno della copertura della Germania per ripararsi dai possibili attacchi speculativi del mercato. Così lo fa l'Italia, perché ha un governo forte e un leader molto popolare. È bene rendersene conto. Eccoci qua dunque, da una parte il tema energetico quasi contingente, anche se lo è solo in parte, visto che direi che è un tema ricorrente stagionale, con picchi di crisi, dall'altro davvero il macro tema della crescita economica. Poi però ci sono anche magari notizie più piccole che vi segnaliamo. Una in particolare riguarda i semestri. Come sappiamo ampiamente, siamo ben oltre la metà del semestre a presidenza italiana. I prossimi saranno i lettoni, quindi dopo Roma sarà Riga la responsabile della presidenza semestrale, ed è proprio dai quotidiani della Lettonia che emerge questa settimana un articolo anche un po' ironico che sostanzialmente racconta di come in Lettonia non si parli d'altro che della presidenza. Quindi i colleghi lettoni dicono: mentre aspettiamo la guida, appunto, che come sapete è a rotazione, quindi non ci sono voti, non c'è nulla da prevedere ma solo da attendere il calendario del 1 gennaio, i politici della Lettonia non fanno altro che parlare di questi temi. Sembra, così lamenta il quotidiano LSM di Riga, appunto, che i problemi reali del paese si stiano completamente svaporando nel dibattito politico, mentre i leader politici del paese baltico si concentrino soprattutto su quale iniziative, ruolo e standing, insomma, dovrà avere la presidenza lettone dopo quella italiana. Insomma, un articolo con un chiaro fondo ironico che si dice un po' preoccupato e una sorta di invito a tornare alla sostanza. E invece in Grecia, Sophoklis, quindi Sofocle, è un quotidiano online greco che si preoccupa d'altro. C'è un attacco molto esplicito da parte di questo quotidiano alle ultime iniziative prese da quelle che vengono definite appunto le grandi istituzioni economiche internazionali, la Banca Centrale Europea, il Dipartimento Americano del Commercio, il Fondo Monetario Internazionale. Tutto questo per dire, secondo gli autori, che in Grecia c'è da preoccuparci, perché è chiaro, scrive appunto l'articolo di Sofocle, che l'Europa in realtà sta quasi a corto di fondi e di capacità, e secondo appunto il quotidiano greco sarà molto difficile, se non viene fatto rapidamente, affrontare prossime crisi. Insomma, ancora una volta la Grecia e i greci, particolarmente colpiti, pesantemente colpiti dalla grande crisi di questi anni, si occupano di aspetti pratici, insomma, sottolineano quelli che sono le difficoltà enormi del paese, la disoccupazione altissima, e lamentano sostanzialmente una scarsa azione delle istituzioni e in particolare dalla Banca Centrale Europea. E infine il Financial Times, dunque andiamo nel Regno Unito, un titolo chiaro Cameron mette davanti i suoi interessi rispetto a quello del suo paese, e così scrive il noto quotidiano londinese. Il primo ministro David Cameron ha rifiutato di accettare la richiesta da parte dell'Unione Europea di pagare 2,1 miliardi di euro per ripianare il budget appunto dell'Unione. Il Financial Times avverte di fatto i suoi concittadini che questo atteggiamento farà sicuramente molto piacere agli euroscettici, ai membri, agli elettori del Partito Conservatore, ma questo non farà altro che allontanare il Regno Unito da quelle che sono di fatto la stanza dei bottoni delle decisioni di politica europea. Tutto questo detto dal Financial Times, insomma, ha un certo peso, e staremo a vedere se appunto le esigenze di politica interna elettorale di Cameron continueranno a condizionare, come sostiene Financial Times, la politica di Londra. Dunque è tutto per questa settimana, non mi resta che salutarvi e lasciarvi alla giornata dei programmi di Radio 24. Un saluto. Rassegna stampa Europa in collaborazione con Euronet Plus.